Buonasera a tutte e tutti, siete all'ascolto di Zardis Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Onde Furlane ed è condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. Questa era la sigla Retribution dei Behind Enemy Lines e ora andiamo ad ascoltare due pezzi dei Warfare, una band di Gorizia. E questi due pezzi sono tratti dallo split che hanno fatto coi Titus nel 2018. Sì, un saluto allora a tutti e tutte quelli che ci ascoltano. Allora, iniziamo questo appuntamento di Zardins Magnetics parlando di Alfredo Cospito, anche per se non bisogna dimenticarsi, insomma, di questo compagno che oramai sono quasi 2 anni che sta al 41 bis. Il 5 maggio saranno 2 anni che sta al 41 bis. E ne parliamo stasera, purtroppo, perché in questi giorni c'è stata un'udienza di Cassazione. Appunto, la difesa aveva chiesto, praticamente aveva impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma dello scorso 23 ottobre, e Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato la detenzione al 41 bis nonostante la Direzione Antimafia e Antiterrorismo avesse, insomma, vacillato su questa cosa. E invece la Cassazione praticamente respinge il ricorso della difesa e conferma il 41 bis per il compagno. Vi invito ad ascoltare su Radio Onda d'Urto, c'è una intervista al legale Rossi Albertini, che oltre ad essere un avvocato è anche un compagno, e il quale, insomma, racconta un po' in maniera dettagliata un po' tutta la vicissitudine, spiega che hanno provato di tutto, insomma, le hanno provate tutte, ma che purtroppo questo esito era abbastanza prevedibile ed è proprio intrinseco, diciamo, nell'articolo, insomma, nell'articolo di legge che ha dato origine al 41 bis. E praticamente si può dire che Alfredo è come una sorta di strumento con il quale lo Stato ha voluto dare un ammonimento agli anarchici e ai rivoluzionari d'azione, quindi mettere chi non accetta questo stato di cose e si ribella attivamente davanti al fatto che non sono solo possibili condanne esemplari, ma si corre anche il rischio di carcerazioni come il 41 bis. E quindi, da questo punto di vista, insomma, appunto, lo Stato, come abbiamo messo abbiamo scritto promemoria, diciamo, degli argomenti per la trasmissione, regola i suoi conti sulla pelle di un anarchico torturato. Appunto, l'avvocato, insomma, spiega bene in questa intervista che questo meccanismo di allargamento del 41 bis da, diciamo, i reati associativi di mafia addirittura poi dopo, appunto, ai compagni delle nuove BR per i quali non si trattava comunque di una struttura organizzativa similare a quella chiamata mafiosa, e addirittura ora applicato anche a un anarchico individualista. E appunto questa cosa del 41 bis, lo ribadiamo, è una tipicità dei provvedimenti legislativi di emergenza che vengono introdotti apparentemente, diciamo, per prendere di petto una cosiddetta emergenza, e poi queste emergenze vengono enfatizzate dagli organi di stampa, e poi queste norme sempre più liberticide, sempre più di tortura, appunto, vengono stabilizzate e poi allargate nel corso degli anni a soggetti, ad altri soggetti, insomma, a vari soggetti ai quali la norma poi viene applicata. Ecco, quindi, insomma, adesso il prossimo passo, diciamo, è il ricorso alla CEDU, che però ha tempi piuttosto lunghi, e quindi non c'è da stare allegri, perché probabilmente, insomma, speriamo di no, ma speriamo che, insomma, questo ricorso alla CEDU venga accolto quanto prima, ma per il momento la prospettiva è che Alfredo debba rimanere tutti e quattro agli anni, insomma, quindi gli ancora 2 anni che gli restano al 41 bis. E una cosa che è impressionante è che l'avvocato non ha neppure potuto, diciamo, comunicare con Alfredo per l'esito della Cassazione, per cui il compagno probabilmente lo avrà saputo dalla stampa o dalla TV, insomma, di regime, quindi, in quanto il 41 bis stritola anche le relazioni con il proprio difensore, e quindi non è che il detenuto può chiedere di fare una telefonata con il proprio avvocato per sapere l'esito di una vicenda giudiziaria, ma deve chiedere al carcere di poter telefonare all'avvocato. E il carcere di assegnazione si mette in contatto con il carcere di residenza dell'avvocato, che contatta l'avvocato stesso, insomma, perciò praticamente passano 10 giorni prima che ci possa essere una comunicazione, quindi anche da questo punto di vista qua, diciamo, il prigioniero viene lasciato da solo, insomma, anche di fronte a queste faccende qua. Niente, ribadiamo, insomma, come abbiamo sempre fatto in questi anni, la nostra solidarietà e vicinanza ad Alfredo, e questo è quanto. Sì, e parliamo di un'altra vicenda, appunto di questa azione così importante, non mi vengono le parole, entusiasmante io direi, nonostante l'esito poi repressivo, però un segno importante che hanno dato ieri appunto 5 compagni, sono riusciti a bloccare praticamente un aereo all'aeroporto di Malpensa, un aereo della Royal Air Maroc diretto a Casablanca, che appunto doveva deportare un compagno che era stato catturato, Jamal, che era stato catturato a Torino e poi portato nel CPR di Gradisca di Sonzo, tra l'altro un compagno che abbiamo conosciuto anche noi perché era venuto fuori dal CPR la scorsa estate durante un'iniziativa solidale con i prigionieri. E appunto questi compagni, quando sono venuti a conoscenza che c'era in ballo questa deportazione, sono riusciti a introdursi in aeroporto e addirittura ad arrivare sulla pista e quindi a, a bloccare insomma questo volo. E appunto il blocco è durato parecchio, un'ora e passa, e poi alla fine il comandante dell'aereo non ha voluto insomma deportare appunto la persona che non si sa poi alla fine se era Jamal o no, perché poi alla fine comunque un altro prigioniero del CPR si è rifiutato il comandante di deportarlo, e poi si è saputo che probabilmente Jamal era stato trasferito a Bologna e quindi l'hanno deportato a sua volta in Marocco, da lì, da quella città. Ha chiamato ecco, lui da Casablanca. Ecco, ha chiamato lui da Casablanca. E, allora, i compagni erano cinque, abbiamo detto, una compagna è stata rilasciata perché hanno subito un fermo, insomma, protrattosi per molto tempo, poi però una compagna è stata liberata con la denuncia di interruzione di pubblico servizio, mentre gli altri quattro sono in carcere in attesa della convalida dell'arresto e sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti. Chiaramente la cosa è pesante, insomma la ricaduta repressiva è pesante, però questa cosa qui è una cosa già ciò che avevano fatto insomma a Torino per cercare di ostacolare la cattura di Jamal è stata una cosa molto importante, e anche questa presa di posizione, questa azione diretta qui è importante perché dà un po' di fiducia nel fatto che è possibile, non è una cosa, cioè non queste macchine infernali, queste macchine infernali e disumane non sono talmente grandi e talmente infernali da non poter essere inceppate, e questo è importante, insomma è una cosa che dà coraggio, io penso, a tutti noi. Per scrivere alle compagne e compagni, Miriam, Samite, Elena Micarelli, carcere di San Vittore, piazza Filangieri 2, 20123 Milano. E i compagni sono invece Iosto, Iaris, Marino, Giuseppe Cannizzo, carcere di Busto Arsizio, via Cassago Magnago 102, 21052 Busto Arsizio, Varese. Stop it! Stop it! Siamo all'ascolto degli Oi Polloi, questa canzone si chiama Rich Scumbag. Le altre che abbiamo ascoltato e questa fanno parte di un CD compilation che si chiama Pigs for Slaughter, 20 Years of Anarcho-Punk Chaos. Ecco, ciao, un saluto a tutte, tutti voi, anche da parte mia, per questa sera Zardins Magnetics, per questa sera di giovedì 21 marzo, io semplicemente pensavo di dare una lettura di un paio di notizie, così, fra virgolette, notizie, diciamo, notizie sottoposte a censura praticamente da parte di tutti i media mainstream, tranne poche eccezioni, provenienti dalla striscia di Gaza e senza grandi commenti, magari se trovo modo, insomma, li inserisco da qualche parte. Allora, un articolo uscito sul Fatto Quotidiano 12 marzo. BBC, medici denudati e picchiati dall'IDF. Medici denudati portati fuori dall'ospedale con le mani dietro la testa. Picchiati e umiliati dai militari israeliani. Il video esclusivo, diffuso dalla BBC, su quelli che sembrano essere solo gli ultimi abusi commessi dalle truppe di Tel Aviv nei confronti dei civili della striscia di Gaza, è stato definito scioccante anche dal ministro degli esteri britannico David Cameron. Intervenendo alla Camera dei Lord, ha chiesto conto dell'accaduto alle autorità dello Stato ebraico. Queste immagini e resoconti provenienti da questo ospedale sono molto inquietanti, ha dichiarato, e dobbiamo andare a fondo di ciò che è accaduto esattamente, e abbiamo bisogno di risposte da parte degli israeliani. A riguardo, anche il viceministro degli esteri Andrew Mitchell, riferendo ai comuni, aveva invocato un'indagine approfondita su quanto successo. Su questo episodio, avvenuto il 15 febbraio scorso, la rete britannica ha prodotto un vero e proprio report, intervistando operatori sanitari dell'ospedale Nasser, nella città di Khan Yunis, dove i militari dello Stato ebraico hanno condotto uno dei raid all'interno delle strutture ospedaliere della striscia, motivando le proprie azioni con la presenza di miliziani di Hamas. Le persone sentite dalla BBC hanno detto di essere stati umiliati, picchiati, bagnati con acqua fredda e costretti a rimanere inginocchiati per ore, come si vede dal video. Nelle immagini si notano anche militari impegnati a portare fuori dalla struttura pazienti allettati, sospendendo quindi le cure da parte dei responsabili dell'ospedale. Tra i racconti raccolti c'è ad esempio quello di Ahmed Abu Sabba, medico dell'ospedale Nasser, che ha detto di essere stato trattenuto per una settimana durante la quale gli sono stati aizzati contro dei cani con la museruola e la sua mano è stata rotta da un soldato israeliano. Altri due medici, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno riproposto racconti simili. Le forze di difesa israeliane, interpellate dall'emittente, si sono limitate a dire che qualsiasi abuso sui detenuti è contrario agli ordini dell'IDF ed è quindi severamente proibito. Nel video girato il 16 febbraio si vede una fila di uomini in mutande davanti al pronto soccorso dell'ospedale, inginocchiati con le mani dietro la testa. Sono identificabili come medici perché al loro fianco si vedono i camici che indossavano poco prima. Chiunque abbia provato a ruotare la testa o a fare qualsiasi movimento è stato colpito, ha raccontato il direttore generale dell'ospedale, il dottor Atef Al-Hut. Li hanno lasciati per circa 2 ore in questa posizione vergognosa. L'IDF ha replicato, spiegando che di norma durante il processo di arresto è spesso necessario che i sospetti terroristi consegnino i loro vestiti in modo che possano essere perquisiti e per assicurarsi che non nascondano giubbotti esplosivi o altre armi. Il dottor Abu Saba, 26enne medico al Nasser, all'ospedale Nasser, ha parlato della sua detenzione come di una tortura, con i detenuti in piedi, per ore, senza una pausa. Ha detto che altre punizioni includevano il fatto di giacere a pancia in giù per lunghi periodi e di ritardare i pasti. Da quanto risulta alla BBC, sono 49 i membri del personale medico che sono stati detenuti. Di questi, 26 sono stati nominati da più fonti, tra cui medici sul campo, dal Ministero della Sanità gestito da Hamas, da organizzazioni internazionali e famiglie delle persone scomparse. La BBC ha anche raccolto altre testimonianze di detenuti rilasciati e altri medici. Dicono che l'edificio della maternità chiamato Mubarak era diventato il luogo in cui l'IDF interrogava e picchiava il personale. Mi hanno messo su una sedia ed era come una forca, ha continuato Abu Saba. Ho sentito il rumore delle corde, quindi ho pensato che sarei stato giustiziato. Dopodiché hanno rotto una bottiglia e il vetro mi ha tagliato la gamba e l'hanno lasciata sanguinare. Poi hanno iniziato a portare dentro un medico dopo l'altro e hanno iniziato a metterli uno accanto all'altro. Sentivo i loro nomi e le loro voci. L'IDF ha detto che non effettua e non ha effettuato finte esecuzioni di detenuti e respinge tali affermazioni. Tutti e tre i detenuti con cui ha parlato la BBC, però, hanno affermato di essere stati stipati su veicoli militari, picchiati mentre venivano trasportati via in gruppo. I soldati li hanno picchiati con bastoni, manichette, calci di fucile e pugni. Ci hanno portato su un pezzo di terreno coperto di ghiaia, ci hanno costretto a inginocchiarci e a farci bendare gli occhi. C'era una fossa nel terreno e pensavamo che ci avrebbero giustiziati e seppelliti qui. Abbiamo iniziato tutti a pregare. Pensate a te e a quanto potrebbero essere meravigliose le nostre vite se solo non fossero sacrificate le dolci del nostro, pronte a divorarle in qualsiasi momento. Sul riflesso dei loro scudi vedo il mio volto trasformato in un passamontagna e penso a te con un sasso in mano. Penso a te e a come ridevi di fronte ad ogni loro bugia, ad ogni loro trucco smascherato in riso penoso. Penso a te e alla tua risata che aveva lo stesso suono del mio sasso lanciato contro una delle loro vetrine. Lettera X al valico proibito. La vita non può entrare a Gaza. Aiuti nel deserto, camion fermi in Egitto, il flusso di aiuti è in aumento da tutto il mondo, ma i controlli impediscono arbitrariamente l'accesso. È un articolo di Chiara Crucciati sul Manifesto di 2 settimane fa, edizione 6 marzo. La fila di camion inviata al valico di Rafah. La fila di camion fermi incomincia a Ismailia. Gli autisti scendono, si sgranchiscono le gambe, Poco più avanti un checkpoint è la prima delle tante frontiere interne che da anni segnano l'eccezionalità militarizzata della penisola del Sinai. Un funzionario del governo egiziano è seduto tra le corsie immaginarie del checkpoint, davanti a un tavolino impolverato di plastica e un registro ad altri tempi. Scrive a penna le targhe di ogni veicolo in transito. C'è lo spettro sociale al completo. Auto scure con uomini in giacca e cravatta, furgoncini arrugginiti, pulmini di famiglia, ragazzi con la keffia avvolta sulla testa e il volto scurito dal sole, che qua picchia forte. Passa un pullman della Sinai University. È vuoto, lo segue un pick-up, trasporta centinaia di trecce d'aglio. Qualche centinaia di metri dopo appare il checkpoint che conduce al tunnel del canale di Suez. 10 corsie, deserte. Era immaginato, forse, per un traffico imponente che oggi non esiste. Il Sinai è blindato, in fondo a ogni corsia hanno montato scanner a raggi X per autobus e tir. Di camion se ne vedono altri alla spicciolata, hanno i loghi di UNRWA, OIM, ONG turche, ricompaiono centinaia di chilometri dopo, prima di Al-Arish, poi a Rafah, e qui a un soffio da Gaza che prende forma all'operazione Spade di Ferro lanciata da Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. E nei 1500 camion umanitari immobili tra Al-Arish e Rafah sono strapieni di aiuti e la destinazione è a un passo, eppure aspettano lì, sotto il sole del deserto. Il flusso di aiuti sta aumentando da tutto il mondo, mi verrebbe da dire rallentate, non riusciamo a farli entrare, ma come fai a dire di no a chi vuole donare? Mohammed Nosser è il capo delle operazioni della Mezzaluna Rossa egiziana ad Al-Arish. Ha una sessantina d'anni e dice che una guerra così non l'aveva mai vista. Accoglie al valico la carovana solidale italiana organizzata da varie organizzazioni non governative, parlamentari dell'opposizione, cosiddetta, dico mi è aggiunta, giornalisti e ONG sono venuti a chiedere il cessate il fuoco immediato. Nosser si muove su e giù, davanti al valico, in mano walkie-talkie. Coordina entrate e uscite, indica il muro di cemento che a destra e a sinistra si spegne nel grande arco diventato simbolo dell'impotenza globale. Il valico sembra irreale, come il pannello della coreografia di un brutto film. Di qua una calma distopica, di là fame e bombe. I camion passano da qua, ma non tutti quelli che vedete entrano subito a Gaza. Prima devono passare le ispezioni. È lì che si inaugura la complessa procedura frutto dell'accordo tra Israele, Egitto e ONU. La burocrazia militare rallenta disperatamente il flusso. Ci sono due linee, Ci sono due linee, dice Nosser. I convogli ONU si dirigono direttamente al valico di Kerem Shalom. I convogli dell'ARC, delle ONG internazionali, quelli inviati da altri paesi, vanno a Nizana, 50 km a sud. Dopo l'ispezione si dirigono verso Kerem Shalom, svuotano a terra il contenuto in attesa che lo carichino i camion palestinesi. Israele non autorizza nessun tir esterno a entrare a Gaza. Vabbè, siccome qua l'articolo è un po' lungo, insomma non avevo pensato che leggerlo tutto era occupava troppo tempo, però ve lo sintetizzo, insomma. E ci sono delle procedure, diciamo così, per cui il 98% di tutti gli aiuti che vengono dai vari paesi arabi, soprattutto dalla Turchia, oltre che probabilmente da tante anche ONG così dell'Occidente, vengono bloccati. Questi aiuti possono essere anche come si chiamano, i respiratori, gli incubatrici, vari tipi, tutti i generatori di corrente, insomma generatori diesel, insomma quelli lì bloccano, anche se, qualsiasi tipo ecco, di supporto che abbia dentro metallo, così in maniera estremamente arbitraria, ecco. Praticamente, ecco, anche sulle come si chiamano, le ambulanze, sulle, non so, anche una marea, ecco, di ambulanze restano ferme o tornano indietro e non vengono, ecco, ne entrano poche, cioè ne entreranno due. Di fatto i palestinesi si trasportano i moribondi con i carretti sì, i, non so, gli asini, quello che c'è, quella, i, non so, i muli, ecco. E questa è, queste sono le notizie che fanno fatica a arrivare alle orecchie di chi, insomma, di chi parla italiano. E, che dire, e, sì, è difficile fare commenti, una stupidaggine, e sono 2 anni che tutte le, cioè qualsiasi tipo di sportivo russo, per dire una scemenza, tutta la Russia è bandita da qualsiasi tipo di competizione sportiva, e invece dal 7 ottobre sono già passati 5 mesi, quasi, insomma, andiamo per 6 mesi, e nessuno si sogna neanche di mettere una stupida sanzione come fermare, ecco, le squadre sportive, ecco. Addirittura ci sono questi qui del Maccabi che giocavano con la Fiorentina nella, diciamo, ex Coppa UEFA Conference League, una partita in questi giorni, e la curva Fiesole hanno, insomma, hanno organizzato una protesta, oltre che un volantinaggio fuori allo stadio, e questi qui hanno preteso, insomma, non pretendevano di non abbandonare il campo, e hanno addirittura tirato fuori il tablet con la loro bandiera in segno di sfida, e con nessun tipo di sanzione, chiaramente nessun tipo di multa, neanche per idea. Il discorso è che secondo me, ecco, non c'è, ecco, non succede niente, neanche a livello, oltre che appunto la meraviglia di questi tipo ministri degli esteri, ministri, ex ministri, il Parlamento, quando hanno appreso la notizia data dalla BBC, oltre appunto all'indignarsi, non sono passati non si sono attivati per mandare, ecco, qualcuno di terzo che controlla, diciamo, che mette di fronte ai fatti queste autorità, insomma, di Israele, e si ferma tutto a livello appunto di indignazione, così, opinioni varie, e si blocca, ecco, l'intervento. Purtroppo siamo in una fase di stallo su questo piano. Siccome adesso vado a concludere, siccome sono circa più o meno questi giorni, ci lasciava un grande, insomma, un grande compagno, un grande, per noi una figura importante, come Sant'Ennotar Nicola, rivoluzionario, rapinatore e anche poeta, e scrive questi versi intitolati Palestina. Quando sbarrate ti sembreranno tutte le strade e il sentiero al nulla condurre, terrai stretto nel pugno quel seme e ti fermerai disorientato. Osserverai il vento e i rami, vedi, i più teneri li hanno spezzati. Lascerai cadere il seme, nascerà presto il germoglio, poi l'arbusto, proprio nel punto dove tornano dolenti le madri, con le donne tutto intorno, negli abiti del lutto. Tra fili spinati ascolterai le nenie, i gridi, gli stridi. Scaverai la terra, scaglierai la pietra. Sul tardi, immerse nel silenzio, dalla montagna avanzeranno le ombre, nette da tutte le offese, stupefatte. Ci siamo ascoltati prima in minoranza di uno e poi gli Oldways dal loro split Do It Yourself Makes You Free, e invece adesso passiamo ai TSOL, True Sounds of Liberty. folks can't feel that fear. You can walk the streets today. You can walk in your own way. People think that I'm crazy. These people just can't see. Wake up, son of a majority. Live your life, day by day. Doing everything that they say. Sì, e diamo anche qualche numero di questo genocidio in corso. Allora, siamo a 160 giorni di guerra genocida. Si sono svolti 2.761 massacri commessi dall'esercito occupante. Ci sono 38.341 morti e dispersi, 31.341 feriti arrivati negli ospedali. Bon, poi ci sono 17.000 bambini orfani, per dire, ci sono dati terrificanti, 11.000 feriti senza cure salvavita, 10.000 malati di cancro a rischio morte, 700.000 contagiati da malattie infettive, 60.000 donne incinte senza assistenza sanitaria, 350.000 pazienti cronici senza farmaci e avanti. E prima si parlava appunto di questa ipocrisia dell'Occidente e anche di questa connivenza, complicità delle potenze occidentali con lo Stato sionista di Israele. E questa connivenza, questa complicità la vediamo tutti i giorni, per dire, anche nelle nostre università, in quanto tantissime università, anche italiane, hanno rapporti di partenariato, di collaborazione con le università israeliane, e queste collaborazioni riguardano anche, cioè riguardano prevalentemente lo studio e insomma la preparazione di tecnologie e gli armamenti. E appunto è dell'altro ieri, due giorni fa, insomma, un atto risale due giorni fa, un atto di censura da parte dell'Università di Trieste, che ha negato agli studenti che ne facevano che ne avevano fatto richiesta l'aula Androna Baciocchi, che serviva per incontrare l'attivista del BDS, boicotta, disinvesti, sanziona, Stephanie Westbrook, E appunto, quindi l'università nega agli studenti questa aula per questo incontro, però gli studenti occupano l'aula e quindi sono riusciti, insomma, a svolgere questo incontro. Sì, questo incontro si è tenuto ugualmente, ma per dire, c'è stato questo tentativo di impedire alla Westbrook di parlare, e non è la prima volta, tra l'altro, che le viene negato il diritto di parola. Tra l'altro, approfitto per dire che la Stephanie Westbrook sarà domani alle ore 17 a Udine, in via Cividale numero 285, dove c'è una sede, insomma, dove ha sede anche Time for Africa e altre associazioni che organizzano questo incontro, appunto, in solidarietà al popolo palestinese e contro il genocidio sionista. E continuando su questo argomento, ma insomma non solo su questo, ma partendo da questo, volevo leggervi alcuni così alcuni brani di un contributo che Rupert, il compagno trentino, ha scritto qualche un po' di tempo fa. Si trovava ancora in carcere, però, e ora per fortuna è agli arresti domiciliari, e aveva scritto questo contributo per il corteo del 2 marzo a Trento. E allora ci dice Rupert: se in guerra la prima vittima è la verità, l'ossessivo tentativo di vanificarla ne fa emergere una in particolare. Il fatto che tutte le democrazie occidentali, difendendo con la faccia ferrata d'orgoglio e le spade sguainate il sistema Israele, non stanno difendendo solo i propri interessi capitalistici coloniali, ma l'idea stessa dello Stato. Un esempio, tanto strumentale quanto strategico, ne è il nocciolo. È tutto fuorché un errore di comprensione, e non solo una tattica per la rappresaglia. Far coincidere la volontà di distruggere lo Stato di Israele con quella di eliminare gli ebrei in quanto tali. Il primo è un obiettivo preciso, cioè distruggere lo Stato di Israele, un obiettivo di liberazione. Il secondo, invece, è un obiettivo indiscriminato, un obiettivo di dominio. Possono sembrare banalità, ma capire questo meccanismo è importante, poiché di riflesso rappresenta la versione israeliana di far corrispondere gli abitanti di un territorio con lo Stato che li domina. Dietro questa rappresentazione del mondo c'è l'inevitabilità dello Stato. All'opposto, la rivolta, che può diventare ipotesi insurrezionale, può rompere il meccanismo. Senza questa distinzione, non solo non si comprende nulla della resistenza palestinese, ma si legittima volontariamente o meno il massacro. Che lo Stato sionista sia il prodotto dell'ipocrisia religiosa e della potenza tecnica nell'insieme è evidente al mondo. Quando il potere utilizza un riferimento biblico, nello specifico Masada, come nome in codice per l'opzione nucleare, si capisce cosa abbiamo di fronte: un Moloch religioso tecnicamente equipaggiato, da cui lo jihadismo, se proprio lo si vuole tirare in ballo, ha solo da imparare. Come non è certo una novità che uno Stato sia tutto e ben peggio di ciò che dichiara di combattere, ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza e in Cisgiordania non ha bisogno di analisi così approfondite, basta sfogliare i rapporti ufficiali dell'esercito israeliano per capire il piano di eliminazione programmata iniziato negli anni 40. La novità, e quello che fa tanto paura alle intoccabili democrazie, è che molti oggi stanno capendo che fin dalla sua nascita, avvenuta a suon di massacri, incendi di interi villaggi e politiche di rapina dei territori, lo Stato di Israele e i suoi coloni hanno goduto dell'appoggio di tutto il fronte occidentale. Di più, che dalla ricerca nelle università alla produzione di nuove armi, dalle strategie di sorveglianza sociale alle tecnologie repressive, esso è parte integrante delle tecnocrazie di casa nostra. La città stessa di cui calpestiamo le strade mentre seguiamo un corso innocuo della facoltà o osserviamo con curiosità una telecamera a riconoscimento facciale è complice fino al midollo del massacro in corso, e lo siamo anche noi nella misura in cui lo accettiamo col silenzio. Per questo la prigione a cielo aperto di Gaza è anche un laboratorio per l'intero pianeta che abitiamo. Di fronte a un massacro che non può essere nascosto, Israele è solo la cattiva coscienza della tecnocrazia. Quale misura devono superare il controllo totale della vita e la soppressione sistematica per essere definiti genocidio è determinante solo per chi cerca alibi e per quei tribunali che non rappresenteranno mai la giustizia degli oppressi. Non lo hanno fatto a Norimberga e non lo faranno per Gaza. La vita è altrove. Questo ci insegnano innanzitutto la straordinaria resistenza palestinese e il movimento internazionale di solidarietà. Ciò che disse un'operaia filippina sul finire del secolo scorso è ciò che direbbe oggi una qualunque palestinese. Non abbiamo bisogno delle vostre lacrime, abbiamo bisogno della vostra rabbia. Non serve aggiungere molto. L'alternativa non è tra la soluzione dei due stati o il dominio incondizionato di Israele, ma tra lo Stato e la vita, tra la tecnocrazia e la libertà. Forse non basta restare umani, forse dobbiamo esserlo nella sua dimensione più radicale. L'organizzazione sociale che ci soffoca va abbattuta insieme con la sua impalcatura tecnologica e le sue avanguardie. Le alternative non ci sono. Sì, continuiamo con un altro contributo da dentro, dal carcere, appunto. È un intervento questa volta di Toby Shawn, che ha elaborato, si intitola La parola scritta sovversiva, e questo intervento lui l'ha elaborato per praticamente per una Tattoo Circus che si è tenuta a El Paso, a Torino, proprio questo marzo. E, allora, Toby Shawn è un anarchico imprigionato in seguito all'operazione E-Dream, cioè un'inchiesta antiterrorismo contro un progetto di controinformazione che si chiamava 325 No State. E, allora, vabbè, l'intervento è molto lungo, io vi leggo alcune cose che sono interessanti, perché Toby Shawn analizza un po' l'importanza, cioè ci parla dell'importanza degli scritti anarchici e proprio degli scritti, dei contributi anarchici in forma cartacea e non solo in forma digitale, e appunto ne parla anche perché il riferimento è anche ai compagni e alle compagne inquisiti per il quindicinale anarchico Besmotivni. E ci dice Toby Shawn perché accade tutto questo, cioè tutto questo, diciamo, accanimento repressivo verso anarchici e anarchiche che producono, diciamo, materiali politici. Perché accade tutto questo? Tutto questo perché l'anarchismo è una minaccia all'ordine tecnocratico esistente. I nostri gruppi di azione diretta hanno una realtà palpabile, seppure minima, a fronte dei compiti che abbiamo di fronte. E la costellazione controinformativa continua a brillare nella notte buia e diviene più semplice da navigare e usare. La stampa anarchica viene vista come attività inaccettabile dalla polizia e dai servizi. Le notizie sulle azioni dirette, sulle lotte sociali e le rivolte vengono bersagliate dalla stessa repressione usata contro coloro che portano avanti le azioni di cui si dà notizia. Si tratta di una strategia esistente da tempo immemore. Nel caso dell'operazione E-Dream, la polizia si è spaventata per la retorica esplicitamente insurrezionalista e anticivilizzazione combinata alla distribuzione di pubblicazioni in forma digitale e cartacea. Tutto questo ci riporta allo scopo delle pubblicazioni anarchiche. Le copie cartacee esistono e acquistano di forza nel loro essere passate di mano in mano, proprio perché in realtà materiale impattante. Ed è su queste pubblicazioni che cercano tracce rilevabili con metodi scientifici, sui libri, le riviste, gli opuscoli, che parlano di idee pericolose che possono ispirare le nostre vite. La loro durata temporale è diversa da quelle digitali e ce ne accorgiamo. Appunto, la loro durata, cioè la durata dei contributi cartacei, del materiale cartaceo, è maggiore di quello digitale in realtà, e inoltre non è, diciamo, è meno tracciabile perché avviene informalmente, insomma, può avvenire informalmente e non, senza lasciare tracce. E continua Toby Shawn: nei faldoni dell'inchiesta E-Dream vengono citate dozzine di pubblicazioni anarchiche, molte delle quali diamo certamente per scontate, liberamente disponibili come sono nelle fiere dell'editoria anarchica, nelle case occupate, nei centri sociali e sui banchetti alle iniziative. Eppure per la polizia, le unità antiterrorismo e i magistrati, queste pubblicazioni formano una cospirazione amorfa mirata al rovesciamento del sistema, il che è vero, ma certo non nella maniera perversa con la quale desiderano interpretarle. Per capirci, veniamo sovente confrontati dal modello repressivo che ascrive una funzione speciale agli autori e ai teorici, quella di direzione. Vengono accusati di dare ordini e istruzioni, poi eseguite da cellule o appartenenti. Non serve certo, vi dica, che tutto ciò è un'offesa alla pratica anarchica, ma questa è stata una delle linee utilizzata dall'antiterrorismo durante i miei interrogatori. Il possesso della rivista 325 rappresenta l'appartenenza a un'organizzazione? Questa organizzazione esegue azioni? Fa parte di un'infrastruttura terroristica più ampia? Questo è stato il tipo di domande che mi piovevano addosso. In questo schema vengono create marionette disposte in strutture gerarchiche che riflettono le loro menti distorte. In questi miei interrogatori gli investigatori si sono concentrati, in parte, sulle funzioni amministrative, sui flussi decisionali, cifre statistiche, gruppi demografici di riferimento, ricerca e linguistica o traduzioni. Riguardo a queste ultime, gli sbirri volevano sapere chi fosse responsabile, come fossero organizzate e chi decidesse cosa veniva tradotto. E il compagno Toby Shawn dalla prigione di Gart conclude così: da ultimo volevo parlare della censura che devo affrontare qui, visto che è stata una caratteristica importante della mia detenzione ed è anche parte di ciò che stiamo discutendo. Molti compagni hanno grossi problemi con la loro corrispondenza e nel ricevere pubblicazioni, non è strano, ma vale la pena dire che mi è stato proibito l'accesso alla maggior parte della mia corrispondenza e dei libri che mi vengono spediti, anche se l'amministrazione carceraria nega che tutto questo mi stia accadendo. È assolutamente vero. Questa è la forza delle nostre lettere, dei bollettini, dei libri, che raggiunge i compagni e spaventa il nemico. Nel mio caso mi è stato negato anche accesso alla stampa e ai testi socialisti, autonomo marxisti e comunisti, che mi sono stati inviati dai solidali della sinistra radicale, come pure testi che parlavano di storia del movimento nero, di giustizia trasformativa e di abolizione della prigione. Mi tengo stretti i pochissimi libri anarchici che sono riuscito a ricevere qui in cella. La libertà è scritta con l'inchiostro e col nostro sangue, come è sempre stato e sempre sarà. Abbiate a cuore i vostri libri, i vostri giornali, le lettere spedite e ricevute. La memoria combattiva persiste. Passiamola ad ogni nuova generazione. Ecco, stiamo ascoltando i Subhumans, band inglese. Questo è un CD che raccoglie due EP che si chiamano Rats e Time Flies But Airplanes Crash. E adesso passiamo ad una band spagnola che ci è stata consigliata e si chiamano Blunt, e ci siamo ascoltati anche prima un pezzo che si chiamava Not My Fault. E adesso ci ascoltiamo altre canzoni tratte dal loro omonimo album. Come on. Allora, siamo giunti quasi alla conclusione del programma, e quindi vi lascio i nostri contatti. Se volete scriverci qualsiasi cosa, potete farlo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121, o se volete scrivere attraverso l'indirizzo di posta elettronica, questo è liberetutti@autistiche.org. E questa puntata e quelle precedenti le potete trovare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org e basta. Stiamo ascoltando i Blunt e niente, ascolteremo ancora qualche canzone dei Blunt e se mi va di cambiare, in caso casomai ascolteremo anche gli Emil and the Sniffers. Un saluto a tutti e tutte e ci sentiamo il prossimo giovedì. Ciao. Un saluto anche veramente col cuore a Jamal. Ciao.